sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In tre, dentro un camper scalcagnato, a brindare per la mezzanotte che sanciva il Natale sotto un diluvio universale, in un parcheggio deserto dell'Eur. E noi ci sentivamo i più felici del mondo. Sono Diego, vivo a Lione, faccio il giornalista e sono contento di aver seguito l'indicazione di mia mamma che quando avevo 12 anni mi ha detto: scopri anzitutto quello che ti piace fare e poi trova qualcuno che ti paghi per farlo. Il brindisi, il gesto che si fa alzando e toccando i bicchieri prima di bere in un gruppo di due o più persone, è un saluto in onore di qualcuno o di qualcosa, come augurio di fortuna, buona riuscita di un'impresa o di un avvenimento. La parola, eccolo qua, volevo arrivare qua, deriva dallo spagnolo brindis, a sua volta derivato dalla formula tedesca usata nelle libagioni, bring dirs, cioè lo porto a te, inteso come il bicchiere, ergo il saluto. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui, è il 30 di dicembre, manca un giorno di fatto all'ultimo giorno dell'anno, che è il giorno in cui si salutano i 365 giorni che sono andati, comunque siano andati, nel bene e nel male, si brinda appunto all'anno nuovo e ovviamente, come ogni tanto mi capita, mi rendo conto che non so un sacco di cose e quindi le vado a cercare e ringrazio quindi anche questo programma anche per questo motivo. Dal termine Qing Qing, perché si dice Qing Qing ad esempio? Ha origini cinesi, dal termine Qing Qing, che significa prego prego, si tratta della forma Qing Qing del Pidgin English, l'inglese universale, quindi appunto una roba che è inglese ma arriva dal cinese. Oggi raccontiamo storie, ovviamente lo facciamo tutti i giorni, lo continuiamo a fare anche in questi ultimi giorni del 2014. Oggi raccontiamo due storie diverse. Sono una storia dedicata appunto a questa idea del brindare a qualcosa e farlo in un modo particolare, che è la storia di Diego, perché appunto in questi giorni di feste più o meno comandate e canoniche in cui si brinda in un certo modo, più o meno sempre quello, attorno a un tavolo con gli amici, con i cari e i parenti, la storia di Diego ci sembrava proprio una piccola esempio di angolazione diversa di brindisi, e l'avete sentito dall'intro, no? Sono in un parcheggio deserto, sono in un camper, adesso capiremo anche il perché si trovano lì. In questa puntata però abbiamo deciso di raccontare due storie diverse, appunto una è questa, e l'altra invece è una storia di Roberto che parla di un oggetto particolare. È un oggetto, credo che sia, io ho fatto una ricerca e non ho capito molto bene, credo che siano quegli oggetti che ogni tanto si vedono ai bordi delle strade. Avete presente quando ci sono questi tizi che sembrano guardare con un cannocchiale? In realtà c'è questo treppiedi che è puntato in una direzione, dall'altra parte c'è un altro e credo facciano delle misurazioni. Credo che siano qualcosa a che fare con la toponomastica. No, toponomastica non c'entra niente, sono i nomi delle strade. Con la topografia, probabilmente, con la misura del... Vabbè, sto dicendo delle cose che chiaramente non so, quindi vi prego di non prenderle per oro colato, come mi auguro facciate sempre con quello che dico. Vi dicevo, raccontiamo due storie, quindi è arrivato il momento di partire con la prima. La storia di Diego parla di un brindisi particolare in un luogo molto particolare. Dentro un camper scalcagnato, a brindare per la mezzanotte che sanciva il Natale sotto un diluvio universale, in un parcheggio deserto dell'Eur. Sarebbe bastato per farci sentire sfigati e abbandonati dal mondo. Noi invece no. Noi ci sentivamo i più felici del mondo. Lontani da rituali natalizi che allora vivevamo come superficiali, logori e sempre uguali a se stessi. E vicini, invece, alla strada e a chi per strada ci vive. La memoria comincia un po' a confondersi, a sfumare nell'aura del mito. Comunque, rifacendo i conti, credo avessimo tra i 23 e i 24 anni al massimo. Le altre due persone si chiamavano Walter, un altro operatore della cooperativa per la quale lavoravo all'epoca, e Carolina, che era un'altra ragazza che lavorava con noi, per la quale non nego di aver avuto un fortissimo debole. In tre avevamo a malapena 70 anni e gli occhi pieni di sogni. Percorsi diversi, talvolta ad ostacoli, ci avevano fatto incrociare nella stessa cooperativa per l'assistenza ai senza fissa dimora. E percorsi diversi ci avevano fatto andare controcorrente, mentre all'approssimarsi del Natale tutti i nostri colleghi se la sono data a gambe per trascorrerlo con la famiglia, noi, con la stessa foga, abbiamo imboccato la direzione opposta, per trascorrerlo il più lontano possibile da zii, nonne e tombole a cui nessuno voleva giocare. Come già facevamo diverse sere a settimana, anche quel 24 dicembre siamo quindi partiti con il camper della cooperativa a fare la nostra ronda sotto i ponti, nei parchi e dove sapevamo che abitavano i nostri amici. Più che distribuire coperte e qualche scatoletta di cibo, lo scopo era tendere un amo, agganciare chi vive ai margini della società con gli strumenti poveri di buona volontà e chiacchiere, per avvicinarli al circuito dei servizi sociali e offrirgli una nuova opportunità. Tutto non era ovviamente rose e fiori e buoni sentimenti. La comunicazione era spesso difficile, l'alito etilico dei nostri interlocutori talvolta era insopportabile. La sensazione di svuotare il mare con il secchiello dietro l'angolo era palese. Ogni tanto capitava anche che all'appello mancasse qualcuno, stroncato dal freddo. Quella sera invece no, c'erano tutti. Non ricordo i nomi, ma in gran parte venivano dall'est Europa. Quanto abbiamo provato a fare quella sera è stato portare un po' di Natale, niente più di un po' di calore e di chiacchiere, accompagnati da una fetta di panettone e un bicchiere rigorosamente di succo di frutta. Quello che resta nella memoria è però l'impressione veramente di una grande famiglia di persone che erano diventate parte un po' del nostro giro, dei nostri amici, che noi ogni giorno andavamo a controllare anzitutto che fossero ancora lì, che ci fossero ancora, perché comunque l'inverno, seppure a Roma, ne faceva anche di morti. Non abbiamo sicuramente cambiato il mondo, ma quella sera avevamo chiara l'impressione che il mondo avesse cambiato noi. Allo scoccare della mezzanotte e sotto la pioggia, ciascuno di noi ha scartato le vettovaglie che aveva portato e senza dircelo, al lume di candela, abbiamo tutti pensato che mai un cenone di Natale sarebbe stato più buono. I'm amazed that you have a way of running circles round the landing, out in the fields in the summertime. What's going on in your great big mind? What's going on in your great big mind? Appoggiato a una bella parete fatta tutta di pietra, immagino forse di un qualcosa di interrato, di una locanda, di un pub, chissà dove, Diego guarda dritto nell'obiettivo, è in maniche corte, ha davanti a sé un bel bicchiere di vino. Pronto Diego, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come stai? Un po' infreddolito in questo dicembre rigido, soprattutto in Francia dove mi trovo. E infatti raccontaci un po', perché sei in Francia? Cosa ci fai lì, Diego? Sono in Francia un po' per caso, perché nella mia vita di giramondo con il fuoco dove non batte il sole, che mi ha portato a girare un po' dappertutto, a un certo punto avevo iniziato a lavoricchiare da freelance per la Francia e poi il piede è rimasto incastrato nella porta e oggi mi ritrovo sposato e felicemente radicato. Scusami, cerco di prendere pezzi di quello che mi hai detto, Diego. Il fuoco dove non batte il sole, che cosa intendi? È un'espressione romana, ma volevo cercare di essere delicato e non, e non scendere nei dettagli, per dire il pepe che ti spinge a muoverti e a non fermarti mai e quindi a cercare sempre nuovi posti. Ma che ha a che fare quindi con l'amore, con il lavoro oppure ha a che fare? Ha a che fare soprattutto con il lavoro e con la voglia di non fermarsi e di continuare a scoprire e a girare il mondo. Ma mi dici cosa fai esattamente, Diego? Faccio il giornalista. Ah, perfetto. Di che cosa ti occupi esattamente? Qui mi occupo di un po' di tutto, perché lavoro per una televisione internazionale che è generalista, All News, in 13 lingue, quindi ho trovato un po' il mio approdo, perché per chi come noi fa parte della generazione Erasmus è un po' un Erasmus della terza età, perché si trova a lavorare persone di tutte le lingue e tutti i paesi, e quindi per chi fosse nostalgico e non volesse lasciare questa così sì, le atmosfere dell'Erasmus, ecco, questo è stato il mio approdo naturale nel cioè, quale sono arrivato. Diego, sei un uomo in perenne Erasmus, ci stai facendo capire sostanzialmente. Un uomo in perenne Erasmus, ma che fa fatica ad accettare che invece l'anagrafe lo riporta al tempo che passa. Ricordami quanti anni hai, ricordami quanti anni hai. Io provo a scordarmelo tutti i giorni, però l'anagrafe è impietosa e sono 38 adesso. Ah, vabbè, ma sembravi un sessantenne da come me lo raccontavi, Diego, scusami. Nel senso che io ne ho 39 e mi fai sentire decrepito in questo momento. Comincio a soffrire di sindrome di Peter Pan, la soglia dei 40 che arriva è psicologicamente difficile. Senti, Diego, visto che manca un giorno all'ultimo dell'anno, dove lo passi questo fine di 2014? Questo fine del 2014 lo passo in Lorena, in Francia, dalla famiglia di tua moglie, della mia donna. E invece il Natale passato, cioè che è appena passato, dove l'avete passato? Ugualmente, perché quest'anno è tutto francese, si alterna di anno in anno. Ah, ok, di solito. Da quanto siete sposati, scusami? Da un anno e mezzo. Ah. Senti, e non è la ragazza del camper scalcagnato non con quel brindisi? Non è la ragazza del camper, la mia, fatico ancora a chiamarla moglie perché mi sembra un termine troppo impegnativo comunque. Ma ce la puoi fare, Diego, secondo me ce la puoi fare, accettare i tuoi 38 anni e il fatto che sei un adulto. Ce la posso fare, il nostro incontro è avvenuto sul cammino di Santiago. Ah. Per cui questo è un buon auspicio che credo... Beh, decisamente. Per tutti e due. Eravamo andati a cercare un po' di pace interiore, ciascuno con motivazioni diverse, e il primo giorno ci siamo invece incontrati. A che altezza? Dove eravate quando vi siete incontrati? Eravamo alla prima tappa per ciascuno di noi, poi come tu sai si può partire un po' dovunque, dove, certo, di Santiago, certo. Però eravamo partiti da una delle principali tappe francesi che si chiama Puy-en-Velay. E l'avete fatto tutto insieme poi? Abbiamo fatto, no, appena una decina di giorni, perché per farlo tutto ci vogliono 2 mesi. No, no, dico, però avete camminato insieme. Di fatto ci si incontrava alla fine di ogni tappa. Abbiamo fatto finta di voler mantenere una certa indipendenza ciascuno di noi. Ormai era evidente a tutti, forse più agli altri che a noi, che di giorno dopo giorno ci si avvicinava sempre di più e si camminava sempre un po' più, cioè, insieme. Allo stesso passo. Diego, senti, torniamo un attimo là invece. Che tipo di ONG era? Era un'associazione? Era una cooperativa che lavorava nell'ambito di quello che si chiamava intervento di secondo livello, laddove il primo livello è quello più propriamente offerto la Caritas, è volto alla sopravvivenza, alla sussistenza materiale, mentre il secondo è quello che opera un po' più propriamente con l'intento di agganciare queste persone per provare ad inserirle nel circuito quasi, di servizi quasi sociali. Più socializzante che di sopravvivenza, mi sembra di capire. Diciamo che si avvaleva degli strumenti dell'erogazione di alcuni aiuti materiali, come potessero essere abiti o cibo, ma semplicemente come amo, come mezzo, in certo. qualche maniera, per provare a recuperare queste persone e mostrar loro che c'era comunque una via possibile per tentare una reinserzione nella certo. società. Diego, e poi ti devo salutare, per quanti Natali lo hai fatto? Questo è stato l'unico Natale in cui l'ho fatto. E avevi quanti anni? Avevo 20, allora, i miei ricordi sfumano, ma tra i 23 e i 24. Ok, quindi, oddio, perdonami, non volevo ricordarti un'epoca in cui ero giovanissimo, adesso non vorrei, Diego, ti venisse un colpo al cuore, ma sappi che sei ancora giovane e hai tempo per fare un sacco di cose belle. Soffro con piacere, non c'è problema. Ti auguro un buon inizio di 2015. Grazie mille anche a te e a tutti. Grazie, Diego, ciao. E nella puntata di oggi, nella puntata del 30 di dicembre, mancano ormai appunto poche ore alla fine di questo 2014, abbiamo deciso di raccontare due storie. Una è quella di Diego, che avete appena sentito, che è dedicata appunto ai brindisi, no? Perché in questo periodo l'idea è quella che ci si avvicini al momento in cui tutti intorno ad una tavola o in un camper scalcagnato, come è successo per lui, si brindi a qualcosa, che per lo più sono le feste e il nuovo anno che arriva. Abbiamo deciso però, in questa seconda parte di puntata, di raccontare una storia che ha a che fare non tanto con le feste e con i brindisi, ma con gli oggetti. Con gli oggetti, sapete che è un po' un mio vecchio pallino, che è oggetti in particolar modo che sembrano inutili, o perlomeno sono, da un punto di vista funzionale, inutili, cioè non ci servono o non ci servono più perché sono sorpassati, perché magari non funzionano, ma che in qualche modo rappresentano un pezzo della nostra vita che noi vogliamo portarci con noi. Non so se ci sono degli oggetti simili che sono appartenuti a un'altra epoca che volete portarvi nel nuovo anno, nella nuova vita che comincia tra due giorni, immaginando che con un nuovo anno cominci una nuova vita. La storia di Roberto, però, Roberto Iannilli, esattamente parla di questo, parla di un oggetto che era del suo babbo, che sembrava non essere più utile e invece lo è ancora. Abitavamo ancora in Via La Spezia. Era tra il 1960 e il 1963, l'anno in cui ci trasferirmo in Via Catania. Avevo al massimo 9 anni. Un giorno papà tornò dal lavoro con una cassetta di legno e un treppiedi, sempre di legno. Ragazzi, occhio a questo, non lo dovete toccare, sennò si rompe e costa un sacco de sordi. Che cos'è, papà? Gli chiedemmo con un sacco di curiosità. È un tacheometro e serve per pià e misura in cantiere. Me lo fai vedere, papà? Dopo, adesso ceniamo che è ora. Perdonatemi il romanesco, è quello che è. Papà non faceva attenzione alla dieta e iniziava ad ingrassare, ma per me era sempre il più forte e grande papà del mondo. Non riuscii ad attendere il dopo di mio padre e finita la cena ero in sala ad aprire di nascosto la misteriosa cassetta. Fermo, Robè, che t'ha detto tuo padre? Mia mamma mi aveva scoperto. Passano gli anni, non abbastanza a far invecchiare il mio papà, che se ne va senza avermi spiegato come funziona quell'oggetto, il tacheometro. Intanto divento architetto, ma evito accuratamente di fare l'esame in cui ti preparano ad utilizzare il misterioso attrezzo. Solo mio padre avrebbe potuto insegnarmelo. E poi, l'altro ieri, mentre cercavo nel caos del garage i rulli per andare in bici da fermo, rivedo la cassetta e il treppiede. I tarli e il tempo hanno lasciato il segno, ma funziona ancora. Lo prendo e lo porto con me. Ora è lì, piantato nel mio salotto, come per misurare e livellare la stufa o il divano. L'ho pulito, trattato e restaurato. Si vede che è vecchio, ma non è mica rovinato. Ormai ha più di 50 anni, non avrebbe senso utilizzarlo in cantiere, ma il tacheometro è quello del mio papà, che non ha avuto il tempo di insegnarmi come si utilizza. Tacheometro è uno strumento topografico simile al teodolite, atto alla misurazione sia angolare che metrica di media precisione. Questo proprio per essere precisi, nel basamento trovano posto tre viti calanti che servono a posizionare l'asse principale dello strumento lungo la verticale terrestre con l'ausilio di una livella sferica. Ma benissimo, già mi sto eccitando come pochi. Se andate avanti nella lettura, questo lo andrò. Il tacheometro tradizionale è completamente manuale, con la lettura degli angoli che avviene all'esterno e all'interno del cannocchiale tramite cerchi graduati o altri strumenti visivi. Chiunque di voi sappia meglio di questa definizione cos'è un tacheometro, aspettiamo ovviamente storie e definizioni. Voi siete qui, @radio24.it. Intanto leggo un messaggio che è arrivato sul profilo Facebook a proposito dei brindisi particolari. Carlo scrive: ho brindato in un gazebo sulla spiaggia dove accoglievamo persone che arrivavano dall'altra parte del Mediterraneo. Insomma, storie simili chiamano storie simili. Io ringrazio quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, come al solito Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Miriam Lucchetti. Vi ricordo che noi siamo in onda ovviamente anche domani, che è l'ultimo dell'anno, e il primo di gennaio invece, che è il primo dell'anno, quindi i brindisi un pochettino li faremo anche insieme. Grazie in particolar modo a Diego e a Roberto, le storie di oggi erano le loro e anche loro sono due punti rossi su una mappa. Sono Anna, vivo a Settimo, la storia di domani è la mia e parla di un'amicizia speciale durata 50 anni. Questa è la mia storia e io sono qui.